Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. L'amore ai tempi del coronavirus, l'amore per la musica è quella che non ci lascia mai, ci accompagna anche in questi momenti di difficoltà. Non ci arrendiamo, neanche Radio Next, che continua a trasmettere grazie al supporto di Radio Veronica One, che ci ha prestato gli studi in questi momenti di particolare e intensa complicazione del lavoro, ma mai arrendersi. E il mai arrendersi lo estendiamo anche alla chiacchierata che oggi faremo con Davide D'Atri, che è dall'altra parte del telefono. Davide è il fondatore di Sound Reef, che è la capogruppo di un gruppo di startup che lavorano sul mondo della musica, al quale do il benvenuto. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora Davide, innanzitutto Sound Reef, ci racconti un pochino che cos'è e che cosa fa? Ma intanto Sound Reef nasce nel 2012 e noi gestiamo i compensi derivanti dal diritto d'autore per conto di autori, compositori ed editori. In sostanza facciamo lo stesso lavoro della SIAE. E nasciamo nel 2012 in Inghilterra e da lì cominciamo a operare. Poi nel 2015 l'azienda diventa italiana, quindi è una storia al contrario, perché dall'Inghilterra la portiamo fantastico in Italia, e adesso l'azienda, diciamo, la capogruppo italiana ha 4 partecipate, di cui la società inglese, però di fatto riportiamo tutto in Inghilterra, una storia al contrario. La nostra attività è quella proprio della SIAE. Noi abbiamo pensato in qualche anno fa che i compensi di autori e editori non fossero distribuiti in maniera trasparente, fossero troppo lenti, potessero, diciamo, essere migliorati. Sì. E così abbiamo fatto e siamo diventati la prima concorrente di SIAE. Poi c'è stata una lunghissima querela legale e politica, alla fine del quale il monopolio italiano è stato abbattuto, non esiste più, ci sono adesso 2 concorrenti che sono la SIAE e Soundreef, l'agente italiano di Soundreef si chiama Lea. Senti, e perché io, autore, compositore, cantante, dovrei rivolgermi a Soundreef? Ma allora, noi crediamo di fare alcune cose meglio di come si facevano nel una volta. In particolare, diciamo, faccio alcuni esempi molto semplici. Per quanto riguarda la radio e la televisione, noi diamo per esempio una rendicontazione in tempo reale, cioè in tempo reale tu vedi sul tuo account dove la tua musica sta suonando su decine di migliaia di canali radio nel mondo e migliaia di canali televisivi. Nel tradizionale tu questa informazione ce l'avevi dopo 18 mesi. Con il bordereau che veniva compilato a mano e poi spedito alla SIAE. È corretto, è corretto. E semplifichiamo ovviamente per non annoiare il pubblico, ma più o meno è corretto, insomma. E dopodiché ci sta, per esempio, un altro esempio, le royalties provenienti da YouTube. Sì. Se nel tradizionale sono fatte a 12-18 mesi, noi rendicontiamo mensilmente. Oppure ancora i piccoli concerti. Nei piccoli concerti, prima la maggior parte dei proventi provenienti dai piccoli concerti venivano ripartiti non su base analitica, cioè non su quello che c'era scritto nel bordereau, ma secondo altri criteri statistici. Noi abbiamo detto da subito: questo è sbagliato, il piccolo autore deve avere i soldi che gli spettano, anche se è un passaggio in un piccolo pub, in una provincia, eccetera, eccetera, non vediamo perché non debba essere pagato. E quindi qualsiasi provento viene ripartito al 100% secondo l'effettivo utilizzo della musica, e nei concerti noi rendicontiamo a 7 giorni invece che 12 mesi nel tradizionale. Quindi, fantastico. Per concludere, diciamo, rendicontazione sempre analitica, cioè si paga ciò che viene suonato, rendicontazione molto più veloce del tradizionale e soprattutto tracciabilità, perché quello che più mi infastidiva era che un autore o un editore si lamentava, però non aveva veramente la possibilità di capire perché si stava lamentando. Sì. Cioè, il problema qual è? Andare sul suo account, come un conto banca per esempio, e vedere esattamente la mia musica, quel passaggio su la Rai quel giorno è stato 10 secondi, ho guadagnato 10 euro o quel che sia. Quello ti dà, diciamo, la possibilità poi di lamentarti se non ti sta bene quello che hai ricevuto. Senti, ma come fate a tracciare tutta questa mole di informazioni in un mondo che, volente o nolente, è iperconnesso, e quindi la mia musica che io compongo qui a Torino potrebbe essere tranquillamente suonata in Papua Nuova Guinea da una radio, da una web radio di Tuvalu o di Singapore oppure di Kuala Lumpur? La chiave è proprio questa, cioè il fatto che questo è una galassia di dati, sì, che fino adesso non era, fino a qualche anno fa, non era ben aggregata, ben analizzata, ben conservata, ben distribuita come in altre industrie, mm-hmm, per esempio, come mm-hmm, l'assicurazione, l'industria del settore bancario. Cioè, veniva un po' fatto così, quello che capitava, mettiamola un po' così, diciamo. Ti dovevi prendere quello che ti arrivava, insomma. Sì, esatto, mentre noi siamo ripartiti proprio da là. Infatti io dico sempre che l'informazione in questo settore è molto più importante dei soldi, cioè il dato. Sì. Quindi siamo ripartiti proprio da come possiamo digitalizzare l'intera filiera, come possiamo andarci a prendere quei dati in maniera digitale, in maniera che abbiamo un flow di dati continuo, quotidiano, sì, senza che ci dobbiamo. E classe dopo classe abbiamo fatto proprio questo, quindi per esempio su Radio TV ascoltiamo con uno Shazam, per dire, per sì, dare un riferimento che sì, altri capiscono, uno Shazam professionale, ascoltiamo continuamente queste migliaia di canali radio e televisivi, quando troviamo il brano il sistema immediatamente riporta quel passaggio all'autore ed editore, oppure su Live abbiamo introdotto, siamo stati i primi a introdurre il bordereau digitale, per esempio, mm-hmm, o sulle grandi catene di esercizi, noi ci agganciamo ai circuiti chiusi, prendiamo il dato dal circuito chiuso e plaghiamo su una Google Map dove viene utilizzata la tua musica, cioè un negozio a Stoccolma, un negozio a Roma, un negozio a Mosca. Questo per ogni classe di diritto abbiamo trovato il modo di andarci a prendere il dato dalla fonte in maniera digitale. Ovviamente non è possibile per il 100% del mercato, ma è possibile per oltre il 90% del mercato, quindi l'abbiamo quasi già digitalizzato tutto. Quindi peraltro, scusami, superiamo anche il problema dovuto alla informazione non corretta di comunicazione di determinati brani utilizzati al posto di altri. Cioè io prima, fino a ieri, potevo anche scrivere su un bordereau o comunque comunicare che avevo suonato un certo pezzo, poi magari ne avevo suonato un altro, e quindi i diritti andavano a uno piuttosto che a un altro. Qui invece ci stiamo dicendo che il dato è prevalentemente oggettivo. Assolutamente sì, digitalizzando riesci, diciamo, a prevenire anche dei comportamenti truffaldini o semplicemente delle distorsioni del mercato, mm-hmm, perché ti vai a prendere il dato granulare direttamente, certo, dalla fonte. Certo. Poi tra l'altro in alcuni casi c'è addirittura un cross match, cioè un confronto tra il dato che abbiamo preso noi, sì, e il dato che abbiamo ricevuto invece dall'utilizzatore, sì, diciamo. Addirittura facciamo anche quel tipo di confronto in alcune situazioni e quindi ovviamente, diciamo, maggiore precisione. Maggiore precisione. Senti, se io, diciamo che sono un cantante o sono anche semplicemente un compositore, come faccio ad accedere alla piattaforma di Soundreef? Allora, intanto è tutto online, è tutto digitale, quindi si va sul sito di soundreef.com e si registra i propri brani completamente online e completamente digitalmente, e soprattutto è tutto gratuito. Okay. Noi non abbiamo una tassa di iscrizione, credo che siamo, diciamo, l'unica società di collecting in Europa che non ha una iscrizione, un costo di iscrizione gratuito. Sì, per SIAE, per dire le cose assolutamente precise, SIAE ha un'iscrizione gratuita per tutti gli autori fino a 35 anni. Okay. Però ce l'ha a pagamento dopo 35 anni, e per gli editori invece è sempre a pagamento. È sempre a pagamento. Da noi è sempre gratuito, sia autori che editori. Quindi il vostro modello di business si basa su una percentuale, una fee di quanto guadagnato dall'autore, dal compositore, dal cantante, dall'artista. È corretto, così come SIAE, come tutte le collecting society, diciamo, tutti quanti prendono una fee, certo, rispetto a quello che si è raccolto. Quindi per esempio su Live uno prende il 19%, quel che sia, diciamo, di quel tracciato. Certo, certo. Prima hai citato gli autori, diciamo autori, attori, voci, cantanti, quello che vuoi, anche su YouTube, quindi anche sul lato video streaming o comunque video on demand digitale. Quindi Soundreef può essere anche la piattaforma di riferimento per tutti quelli che sanno o stanno pensando, sono già degli influencer online. Beh, allora diciamo che noi raccogliamo il diritto d'autore sulla musica, quindi deve essere, diciamo, qualcuno che è un autore o un compositore o un editore di musica. Sì. In questo caso certamente sì, online siamo molto forti perché ovviamente, diciamo, nascendo con una voglia di digitalizzazione, l'online è stata una delle prime cose, certo, che abbiamo fatto, diciamo. Quindi, assolutamente sì, là c'hai dei dati molto granulari, ricevi veramente dei dati molto puliti, molto granulari, che riesci, diciamo, a organizzare bene e a presentare all'autoreditore. Là il problema è che queste piattaforme pagano poco, diciamo, ma questo è un problema per tutti, certo. Un problema, devo dire, che riguarda noi, riguarda SIA, riguarda qualsiasi collective society d'Europa, cioè c'è un tema. Queste piattaforme streaming o comunque di video hosting pagano veramente troppo poco di royalty. Tengono gran parte dei guadagni per sé e redistribuiscono poco valore a chi in realtà invece la monetizzazione e il traffico riesce a generarlo per l'interesse che crea attorno al contenuto che ha generato. Sì, bisogna dirlo assolutamente, diciamo, questo è un qualcosa che va cambiato. Non sono in grado le singole società di fare questo tipo di negoziazione con queste grandi piattaforme, non è in grado probabilmente una collective society come la SIA, non siamo in grado noi, è una cosa che va fatta a livello di sistema, certo. A livello di sistema Europa proprio, certo. Perché ovviamente è impossibile negoziare, diciamo, con Google, uno per dirne una, ma semplicemente, diciamo, come dire, per dire un nome a caso. Sì, il nome più importante, o forse il più famoso e più conosciuto da tutti, giusto per farci capire. Per le altre piattaforme, insomma, certo. Giustamente. Quindi questo, però bisogna dire che quantomeno ti danno dei dati molto precisi, molto puntuali, molto frequenti e molto granulari. Quello sì. Ok. Diciamo, sì. Ok, senti Davide, ci puoi anticipare quali saranno gli sviluppi della vostra piattaforma una volta usciti dal delirio che stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi? Quali sono i piani di sviluppo e espansione non solo commerciale, ma anche proprio di servizi che verranno erogati? Io dico sempre che noi siamo al 10-15% di questa rivoluzione, nel senso che abbiamo fatto tanto, abbiamo accorciato i tempi, ma si può fare veramente tanto di più. L'importante è avere l'obiettivo preciso, e l'obiettivo è pagare sempre più velocemente e sempre più trasparentemente questi diritti. Se noi live rendicontiamo a 7 giorni, dobbiamo essere in grado di farlo quasi in tempo reale. Se la radio, la TV rendicontiamo ogni trimestre, noi dobbiamo essere in grado di pagare questi autori editori su base mensile e poi su base settimanale e poi su base quotidiana, perché dobbiamo capire che gli autori editori sono, togliendo, diciamo, le grandi star, sono soggetti che guadagnano cifre molto ridotte, cioè un autore di fascia media, piccola media, guadagna magari 20-25 mila euro di royalties l'anno. Certo. È chiaro che se, diciamo, gliele dai dopo 2 anni, soffre. E certo. Se, diciamo, gliele cominci a dare ogni settimana, ogni giorno, gli dai una grande mano, dai una grande mano alla cultura. Questo si è sempre detto poco, no? Sì. Sempre detto diamo una mano alla cultura, ma la cultura l'aiuti dandogli una mano anche da un punto di vista economico. E cosa c'è di più importante di a aiutare queste persone da un punto di vista finanziario e di trasparenza economica? Quindi soldi sempre più velocemente e sempre più trasparenti, così possono fare, diciamo, il loro percorso artistico, altrimenti, diciamo, diventa complicato. No, certo, tra l'altro la riflessione che mi viene di fare insieme a te è che se io come autore devo percepire il denaro a 12 mesi, è ovvio che questo non può essere il mio primo lavoro, lo devo fare un po', come dire, come dopo lavoro, come secondo lavoro. Invece ricevendolo tutti i mesi o addirittura tutte le settimane potrebbe effettivamente diventare maggiore impegno e quindi anche maggiore qualità del contenuto, ma soprattutto un contenuto ancora più professionale, perché proprio diventa il mio stipendio, il mio lavoro principale, corretto? È corretto, ma c'è anche un impatto da un punto di vista sociale, sai, pensiamo quando l'autore editore, diciamo, è giovane, no? Che in famiglia dice voglio essere musicista, allora un conto è che può far vedere, diciamo, un flow di soldi che arriva molto, diciamo, costantemente, certo. E molto, diciamo, velocemente. Un altro conto è che fa vedere, diciamo, un rendiconto che rimane a zero magari per 12, 24, 36 mesi. Certo. Cioè, c'è anche, diciamo, noi dobbiamo, per fare dei passi avanti da un punto di vista sociale, nel senso culturale, noi dobbiamo pensare, diciamo, che questi meccanismi economici devono essere alla base di un rinnovamento, perché altrimenti siamo sempre a dare, diciamo, argomenti generali, la cultura, capito? Però poi la gente deve guadagnare, deve pagare alla fine del mese il mutuo, anche se li hanno sospesi per qualche settimana o per qualche mese. Senti, Soundreef in realtà, proprio perché tiene molto molto ai suoi clienti, innanzitutto ha reso pubblica anche una dichiarazione con un'attività, come dire, di sostegno in questo momento di particolare drammatica difficoltà anche di natura economica oltre che sociale nei confronti di tutti i suoi iscritti. Ci vuoi raccontare che cosa avete pensato e che cosa state facendo? Si è avuto molta risonanza questa cosa, più di quanto ci aspettavamo, diciamo. Noi l'abbiamo fatto veramente col cuore, pensando ai nostri autori, cioè noi abbiamo ragionato che gli autori più poveri, cioè quelli che avevano guadagnato nel 2019 meno di 10.000 euro di royalties durante l'anno potessero avere dei seri problemi finanziari, certo, queste settimane, perché tutti i concerti, quindi quello che abbiamo pensato è di prendere, diciamo, il loro guadagno 2019 e di fatto dire: scommettiamo che farai più o meno la stessa cosa nel 2020 e ti anticipiamo il 50% di quei guadagni a copertura del 2020. Di fatto è un anticipo sulle royalty che verranno incassate nel futuro. Sì, sì, sì, senza paracadute, senza alcuna garanzia. Bravi. Non è legato a niente, diciamo, te li diamo e basta, sperando che ti siano d'aiuto. Purtroppo, diciamo, non è che gli cambiamo la vita. No, facciamo, certo, quel che possiamo il nostro piccolo. Anche noi non siamo una grandissima multinazionale, siamo una società che, ci tengo a dire, questo sì, ci tengo a dire, siamo nati con 85.000 euro di investimento. Adesso siamo una società che ha raccolto sicuramente tanti capitali e siamo più strutturati, però siamo la classica startup nata dal nulla. Certo, allora Davide, è ovvio che se ci fossero più aziende come Soundreef in questo momento di così forte difficoltà, non dovremmo stare qui a elemosinare dallo Stato e ad attendere che arrivino gli aiuti, ma tutti noi riusciremmo, rimboccandoci le maniche, a darci veramente da fare per cercare di risollevare e far ripartire questo paese che ne ha un enorme bisogno. Ti faccio allora l'ultima domanda prima di salutarci: come sta lavorando in questo momento Soundreef, dove tutto è chiuso, tutti a casa e tutti quanti devono lavorare da remoto? Come vi siete organizzati? Come Soundreef abbiamo consentito a tutti i lavoratori di lavorare smart working già dalla settimana tra il 2 e il 6 marzo. Sì. Poi dopodiché con lunedì 9 li abbiamo proprio obbligati allo smart working, cioè le persone a noi sono molto appassionate, quindi non, comunque gli abbiamo consentito di andare smart working, ma continuavano a venire a lavorare perché sono appassionati e cercano di venire in ufficio. Quindi lunedì 9 abbiamo detto: no, siete obbligati a stare smart working, certo, che ci sembra giusto per, insomma, per il pubblico in generale, giusto per noi stessi, e quindi lavorano tutti da casa. Certamente si soffre in produttività. Poi ci hanno annullato centinaia e centinaia di concerti, sono stati annullati, certo, quindi quelli sono tutte royalties. Si soffre molto, ma ci sono dei settori che soffrono più di noi, vedi il turismo, quindi certo, non ci possiamo lamentare, teniamo duro. Però sì, tutti a casa, a lavorare tutti a casa con i sistemi, diciamo, online di connessione. Era Davide Latri, fondatore di Soundreef SPA, che salutiamo e ringraziamo. Grazie mille, Davide. Grazie a voi, veramente, grazie, buona giornata. E ringraziamo i nostri ascoltatori di Radio Next per questa puntata passata insieme a parlare appunto di qualcosa che ci sta veramente a cuore, la musica. Io ringrazio Felix dall'altra parte del vetro, così come Radio Veronica One che ci ha ospitati nei suoi studi per permettere a Radio Next di andare ancora in onda. Ringrazio tutti quanti i nostri ascoltatori nuovamente e vi do appuntamento alla settimana prossima alle 13.45 domenica per una nuova puntata di Radio Next, oppure con la versione estesa del podcast da lunedì sulla piattaforma del sito www.radio24.it. Un saluto a tutti voi da Pepe Moder.